Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Alle 17:09 minuti inizia una nuova puntata di Focus Economia in diretta anche oggi e per l'ultima giornata dal Vinitaly, padiglione 12, stand E5, Regione Abruzzo. Dicevamo, parleremo anche di vino oggi, di vino come volumi grossi. Abbiamo affrontato ieri i temi più istituzionali con i vari esponenti istituzionali. Oggi parleremo dell'andamento del mercato sul fronte interno e anche sul fronte soprattutto dell'export in questa 48esima edizione del Vinitaly, che da quello che vediamo si sta confermando come un'edizione record anche per i visitatori, che dovrebbero superare i 140.000 dell'anno scorso, di cui più di 50.000 stranieri. Però parleremo anche e soprattutto del Fondo Monetario Internazionale, ci collegheremo con Washington in attesa del Consiglio dei Ministri, che inizierà invece alle 18, Consiglio dei Ministri che ha un unico grande tema, il documento economico-finanziario, il cosiddetto DEF. Su questo oggi il Premier Matteo Renzi è già intervenuto. Per quello che riguarda la borsa, oggi la giornata non è delle migliori, soprattutto per Milano, meno 1,50%, Parigi invece perde mezzo punto percentuale, Francoforte lo 0,60%, va bene oggi solo, direi, Salvatore Ferragamo più 5,26% e IUX che cresce di un modesto 0,21%, negativi tutti gli altri, come capite dall'indice, anche e soprattutto i titoli bancari. Azimut meno 5%, Mediaset meno 4,40%, Popolare Emilia Romagna meno 4% come il Monte dei Paschi. Restando sulle banche, Mediobanca meno 3,60% come Mediolanum, Ubibanca perde il 3,20%, Unipolsai il 3% come il Banco Popolare, Intesa San Paolo cede il 2,27% come Unicredit. Tra gli altri titoli, netta la flessione di Mediaset, meno 4,40%, e anche di Telecom Italia, meno 3,75%, Finmeccanica meno 3,30% come Buzzi Unicem. L'euro è ancora abbastanza forte, o meglio forte, a quota 1,38 sul dollaro. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, la crescita dei mercati emergenti sta rallentando, non lo diciamo noi, lo dice l'Ocse con il suo superindice, non è una bella notizia, e visto che ne parliamo qui a Vinitaly molto di export, rallenta in maniera brusca il Brasile, in calo dello 0,21%, i progressi migliori paradossalmente si vedono nell'Italia e nell'area euro. A proposito dell'area euro, il Fondo Monetario Internazionale oggi da Washington diffonde il suo World Economic Outlook e preoccupa il rischio della stagnazione economica nell'area euro. Occorre riparare i bilanci delle banche, dice il Fondo Monetario Internazionale, e completare l'unione bancaria, dovrebbe dirlo soprattutto ai tedeschi, aggiungiamo noi. Comunque, le previsioni sulla crescita economica dell'area euro, più 1,2% quest'anno, più 1,5% l'anno prossimo, disoccupazione che resta stabilmente, ahimè, sopra l'11%, le politiche economiche invece americane continuano a dare, che sono opposte a quelle europee, continuano a dare i loro frutti. Il PIL statunitense quest'anno crescerà di quasi il 3%, più 2,8%, e il 3% secco invece nel 2015. L'Italia più 0,6% quest'anno, confermato in assenza di nuove politiche, e più 1,1% nel 2015, ma attenzione, la disoccupazione quest'anno toccherà un nuovo record in Italia al 12,4%, un calo si avrà solo l'anno prossimo, un calo abbastanza modesto, all'11,9%. E ancora, il Fondo Monetario Internazionale impegnato in questi giorni in una polemica tra la Lagarde e Mario Draghi, botta e risposta. Draghi ha detto grazie per i consigli, dateli anche agli altri. La Lagarde ha detto questi consigli li diamo da sempre. Insomma, è un battibecco che possono anche risolvere scrivendosi personalmente. A noi quello che interessa è il fatto che il Fondo Monetario Internazionale sottolinei come i rischi di deflazione di prezzi in calo nell'area euro sono fortissimi, più 0,9% complessivamente l'inflazione quest'anno, che al netto della componente energetica vuol dire che non c'è inflazione, più 1,2% nel 2015, tant'è che il capo economista Olivier Blanchard dice che il rischio di deflazione c'è nell'area euro e va evitato. E anche la Bundesbank, che improvvisamente sta cambiando un po' rotta, dice: beh, se l'inflazione è troppo bassa, gli strumenti che la banca centrale ha a disposizione possono essere utilizzati. Da qui a capire che cosa: quantitative easing, quindi stampaggio di moneta, tassi ancora più bassi, ma sono già allo zero. Questo non è detto sapere. Domani la Grecia sarà paralizzata invece dallo sciopero generale contro la politica del governo sulla mobilità e i licenziamenti. In Germania invece il falco, il ministro delle finanze Wolfgang Schäuble, dice: beh, attenzione, il pareggio di bilancio della Germania potrebbe essere a rischio, complice la crisi dell'Ucraina. Veniamo all'Italia, prima di passare ai temi del vino. Tra poco meno di un'ora inizierà il Consiglio dei Ministri, come accennavamo. Un Consiglio dei Ministri che avrà come obiettivo principale il documento di economia e finanza. La misura più attesa, inutile dirlo, è il taglio del cuneo fiscale da 6 miliardi e 600 milioni, che dovrebbe scattare da maggio fino a dicembre. Sono 10 miliardi spalmati sull'anno, sotto forma di sgravi IRPEF, 80 euro in più in busta paga per i redditi più bassi, e IRAP. Anche qui non riusciamo ancora a capire se sarà il 10% il taglio dell'IRAP o una cifra inferiore. La maggior parte delle coperture nelle intenzioni del governo arrivano dalla spending review, dal taglio della spesa pubblica, 5 miliardi attesi. Dal solo settore sanità si attende un miliardo di tagli. Poi ascolteremo nella seconda ora il ministro Lorenzin. Confermato anche il giro di vita su stipendi dei manager e dei dirigenti pubblici, con risparmi presunti per circa 400 milioni di euro l'anno. Lì vige il tetto dello stipendio del primo presidente della Corte di Cassazione, 239 mila euro, e che è anche lo stipendio del presidente della Repubblica. Attesi 1,5 miliardi di euro come gettito aggiuntivo dall'IVA dopo il pagamento di una nuova tranche da 13 miliardi dei debiti che le imprese vantano nei confronti della pubblica amministrazione. Faccio notare che il governo prevede comunque una crescita quest'anno dello 0,8% contro lo 0,6% stimato da altri istituti, e un deficit a politiche invariate al 2,6%. Il Presidente del Consiglio Renzi questa mattina ha detto: insomma, la spending review è una priorità, chi ha avuto troppo deve restituire. È evidente che la revisione della spesa va fatta, perché non c'è una persona tra di noi che non sappia che questa è una priorità. E in questa revisione della spesa, nel pomeriggio illustreremo tutte le varie misure, il criterio chiave che noi abbiamo è che chi in questi anni ha preso troppo, ha evitato di fare i sacrifici, è arrivato il momento che si preoccupi di restituire quello che ha avuto e di dare a chi non ha avuto, a partire dalle famiglie che stanno sotto i 1.500 euro al mese, che non ce la fanno più. Così il Presidente del Consiglio agli Stati Generali della Sanità, dove è intervenuto, come dicevo, anche il Ministro Lorenzin sui tagli. Ha detto: no, i tagli non saranno lineari, il fondo della sanità sarà legato all'andamento del PIL, ma no ai tagli lineari. Finché io non c'ho i numeri del Ministro dell'Economia, faccio solo un'azione preventiva. Il tema è uno, che noi abbiamo un budget, che è il budget dato e fotografato dal tendenziale del PIL, ovviamente. Questa è una cosa che sanno benissimo le regioni e che noi abbiamo sempre avuto come tema. Un fatto è rispettare il tendenziale del PIL e cercare di capire come ci muoviamo, un fatto è avere tagli lineari. I tagli lineari che ti cadono in testa sono difficilmente gestibili e spesso ti impediscono poi di avere possibilità di margine di manovra per recuperare inefficienza. Ne parleremo nella seconda ora del programma, mentre adesso vorrei iniziare l'approfondimento odierno salutando anche tutti gli ascoltatori che sono fuori dagli studi di Radio 24 qui al padiglione 12 stand E5 del Vinitaly, l'approfondimento odierno sul vino. Allora ringrazio per averci raggiunto in studio, da un lato Ettore Nicoletto, che è amministratore delegato del gruppo Santa Margherita, buonasera. Buonasera. Grazie anche a Gianni Zonin, che è presidente della Popolare di Vicenza, ma in questo caso è il numero uno e presidente della Casa Vinicola Zonin. Buonasera anche a lei. Buonasera. E grazie anche al presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, Paolo De Castro. Buonasera, presidente. Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, facciamo una cosa, visto che vi ho tutti e tre qua. Voi siete, insomma, come gruppo Zonin fate 154 milioni di euro di fatturato, parlo del solo vino, avete fatto più 10% sul 2012 con 117 milioni di euro esportati, 42 milioni di bottiglie in tutto. Come gruppo Santa Margherita avete una leadership negli Stati Uniti, anche qui siamo a 17 milioni e mezzo di bottiglie, un fatturato di 102 milioni di euro e un export sui 63 milioni di euro. Aiutatemi a lavorare, nel senso che fate voi, poi arriveremo ai dati che voi avete di settore di mercato, ma vorrei che approfittaste del fatto che c'è qui il Presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo. Già ieri ho avuto modo di indicare alcune normative europee che a me appaiono così strampalate, che vanno a regolamentare un settore che funzionava benissimo come quello dei diritti d'impianto, che possono essere ceduti. La nuova normativa europea vorrebbe invece che vi fosse un'autorizzazione a impiantare senza possibilità di vendere i diritti non utilizzati, ingessando a mio avviso tutto il settore e rischiando poi di trovarci impreparati un domani se dovesse arrivare una domanda più forte di vino. Però, Presidente Zonin e poi Ettore Nicoletto, qual è l'appello che il mondo vitivinicolo, a questo punto non solo quello che lei rappresenta imprenditorialmente, può rivolgere al Presidente della Commissione Agricoltura? Il professor Paolo De Castro è la persona probabilmente la più preparata per quanto riguarda la regolamentazione agricola europea. È un grande esperto della PAC e ha svolto come presidente della Commissione Agricoltura al Parlamento Europeo un lavoro straordinario. Io credo che debba continuare a portare la sua esperienza per tutelare quella che è l'agricoltura italiana e le aspettative di tanti agricoltori, a cominciare dai viticoltori. Questo che il direttore Barigioni ha accennato per quanto riguarda questa diatriba fra concessione e autorizzazione, credo che sia una delle prime cose che gli agricoltori e i viticoltori italiani si aspettano. Noi dobbiamo assolutamente conservare il vecchio schema, perché rappresenta anche un valore per tutti i viticoltori il poter vendere i diritti di reimpianto. Dobbiamo avere le possibilità di affrontare eventuali richieste improvvise di mercato, altrimenti siamo legati al massimo 1% con le concessioni che devono partire dalle regioni, poi devono essere valorati dal Ministero e poi dalla quindi comunità. Quindi nuova burocrazia di cui non si sentiva bisogno, oltre al fatto che, per come la capisco io, che non sono un esperto del settore, se uno non vuole impiantare e ha un diritto e lo vuole vendere a un altro privato, mi sembra un meccanismo che funziona perfettamente. Poi sappiamo che questi diritti non vengono utilizzati soprattutto in alcune regioni, il Sud Italia, in Sicilia, un terzo di questi diritti non vengono utilizzati. Perché burocratizzare il tutto e invece che vendere tra privati, in un normale passaggio, dover chiedere l'autorizzazione alle regioni, allo Stato nazionale, con un massimo dell'1% in più? Comunque, la domanda è chiara, vorrei sentire anche quella di Ettore Nicoletto, così abbiamo una risposta poi congiunta. Ma io, allora, intanto mi unisco alle valutazioni estremamente positive del dottor Zonin in ordine all'operato del professor De Castro, la ringraziamo per quello che ha fatto e che farà soprattutto. Volevo approfittare, visto che il dottor Zonin ha parlato della questione dei diritti di impianto, autorizzazioni, ovviamente concordo, sarebbe un irrigidimento vis-à-vis un sistema che ha dimostrato di funzionare. E non solo in Italia, anche in Francia, in Portogallo, in Spagna. Certo, ha portato anche all'equilibrio l'Europa in termini di produzione rispetto alla domanda. Invece io le vorrei chiedere una semplificazione normativa relativamente a una misura che è quella della promozione sui paesi terzi, che ha funzionato molto bene. È vero che l'Italia ha tantissime risorse sulle quali ha fatto leva a livello di export, e non le menziono, però la misura è stata estremamente utile, è stato un sostegno enorme alle imprese volenterose che hanno impiegato bene queste risorse. Però c'è un problema, che fatichiamo a lavorare con una macchinosità, una burocrazia eccessiva. Noi chiediamo che alle aziende sia consentito di lavorare in modo più fluido, più agile, più semplice, per consentirci di ottimizzare e di utilizzare al 100% quanto ci viene messo a disposizione dall'Europa. Quindi il rischio di un effetto boomerang, anche perché faccio notare che il Cile e l'Australia non se lo pongono neanche il problema dei diritti e delle autorizzazioni, cioè producono e basta, a seconda della domanda, e semplificazione burocratica. De Castro. Dunque, innanzitutto grazie per queste manifestazioni di stima, speriamo che le merito, insomma, che riesca effettivamente a mettere un freno a questa deriva burocratica che purtroppo spesso l'Europa ci dà. Ne abbiamo discusso proprio qui al Vinitaly in questi giorni, non si sentiva assolutamente il bisogno di cambiare le regole. Aggiungo a quello che è stato detto prima in materia di diritti d'impianto che è una normativa che non costa un euro all'Unione Europea. Cioè quella attuale è una normativa che non costa e che ha dimostrato di funzionare, perché il settore vitivinicolo, non c'è settore in Europa che sia così cresciuto e che abbia così aumentato le proprie quote all'estero. Dunque non si capisce perché la Commissione abbia deciso di abbandonare il sistema attuale dei diritti d'impianto per passare a questo sistema di autorizzazioni, la cui efficacia è tutta da dimostrare sotto il profilo delle responsabilità e poi a chi verranno attribuiti queste nuove autorizzazioni. Ma attenzione, voglio dare però un'interpretazione anche sulla situazione giuridica in cui ci troviamo. Nel negoziato che si è concluso, nella Gazzetta Ufficiale che ha pubblicato il regolamento sull'OCM unica che contiene questa norma, è chiaramente precisato che gli Stati membri che ne fanno richiesta possono chiedere la proroga del sistema attuale al 2020. Dunque la partita non è chiusa, la partita è aperta. Bisognerà avere adesso la forza che il prossimo Parlamento e il Consiglio, quindi il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura, si stiano attenti nel momento in cui il commissario Cioloș o chi per lui, perché come sappiamo si rinnova il Parlamento europeo ma si rinnova anche la Commissione europea, dovranno nei mesi di autunnali, presumo intorno a settembre-ottobre, presentare l'atto delegato che mette in pratica quella norma. E qui l'elemento che ci preoccupa, perché le prime bozze che circolano di questo atto dicono appunto che la Commissione vuole vietare la commercializzazione dei diritti, quindi ci sarebbe una stranissima proroga al 2020 del sistema attuale senza la possibilità di commercializzazione, che vuol dire che non proroghiamo nulla, perché noi dobbiamo consentire quella elasticità che il mercato del titolo ci ha concesso. Quindi io credo che la partita ancora sia aperta. Noi proprio ieri abbiamo votato a Bruxelles i primi atti delegati che non riguardano il vino, che riguardano i pagamenti diretti, e abbiamo ottenuto come Parlamento un riallineamento all'accordo. Mi riferisco ad altre produzioni agroalimentari, ma la dimostrazione che con il Parlamento e il Consiglio, che giocano in squadra, possiamo ridurre questo approccio burocratico della Commissione. Bisogna stare evidentemente attenti e cercare di non perdere un minuto nel seguire i lavori della Commissione, che alle volte è indirizzata non per cattiveria ma per non conoscenza. Ricordiamoci che il vino è un settore straordinariamente importante, ma soltanto in 4-5 paesi del sud dell'Europa. Sì, quello è... e questo purtroppo fa sì, come quando parliamo di ortofrutta o di altre culture mediterranee, non ci sia quell'attenzione invece che abbiamo quando si parla di culture continentali. Allora, per quello che riguarda invece la burocrazia per l'accesso ai fondi, perché insomma è una cosa, va detta a tutti gli ascoltatori, che l'agricoltura praticamente si mantiene, tra virgolette, o meglio, gli unici fondi che ha arrivano a livello europeo, a differenza di altri settori industriali e produttivi di questo paese. Per cui l'accesso e la semplificazione burocratica verso i fondi europei non è un dettaglio, vuol dire il 100% dei fondi di cui loro possono godere. Prego. La domanda è molto azzeccata, perché nel caso del vino abbiamo una sedimentazione normativa figlia delle vecchie regole, quando avevamo i sistemi della distillazione preventiva, tutta roba che è stata di fatto cancellata dalla nuova OCM, quella del 2007, che ha introdotto di fatto i tre strumenti: ristrutturazione degli impianti, promozione. Allora è chiaro che non ha senso mantenere un impianto burocratico figlio di una vecchia regolamentazione. Su questo però informo che c'è una chiara volontà del Parlamento, rappresentata con un voto d'aula che va proprio nella direzione dello snellimento burocratico nella legislazione vitivinicola europea, e che sarà uno dei temi del prossimo Parlamento. Per cui anche lì abbiamo una carta, non dobbiamo aspettare che l'Europa ci metta sul tavolo ciò che ha deciso, ma dobbiamo lavorare per fare in modo che quello che decide l'Europa sia costruito con la nostra partecipazione. Allora, adesso fra un minuto abbiamo la pubblicità e poi invece vorrei entrare nei temi di mercato con i nostri due ospiti, anche perché il Presidente De Castro ha vari impegni istituzionali qui a Verona Vinitaly. Una cosa la voglio fare e vorrei su questo fare una cosa che non facciamo mai, perché questa radio non fa endorsement, non fa mai endorsement di tipo politico, e infatti questo non è un endorsement di tipo politico. Di tipo politico, perché qui la politica non c'entra nulla. Allora voglio essere molto chiaro, ci sono le elezioni europee, si rinnoverà tutta la Commissione europea, c'è una possibilità, anche se De Castro non la confermerà mai, che l'Italia si aggiudichi il commissario europeo all'agricoltura. A me non interessa sapere quale sarà il partito di questo commissario, non interessa sapere quale sarà il nome, se è De Castro bene, perché tutti gli operatori di destra, di sinistra, di centro hanno sempre, lo dico perché e anni che seguiamo il settore, hanno sempre riconosciuto la sua professionalità. Ma al di là del nome, io non vorrei che, l'abbiamo detto ieri anche al ministro Martina, che ministro dell'agricoltura, che per logiche interne di partito si perdesse la possibilità di candidare un italiano a commissario europeo all'agricoltura. Lo dico perché non me ne frega nulla dei partiti, delle persone, ma dell'Italia sì. E allora, viste le mazzate che abbiamo preso in questi anni da commissari europei più interessati alle quote latte, diciamo, del nord Europa, perché pensavano che noi dovessimo produrre solo pomodori pachino, cipolla tropea, tutte cose buonissime ma con cui non facciamo l'industria agricola, per favore il Presidente Consiglio Renzi e il suo governo abbia una posizione forte e unica nel candidare un italiano a commissario europeo all'agricoltura. Non perdiamo questa possibilità, i fondi dell'agricoltura sono tutti fondi europei, inutile regalarli ai paesi del nord, ogni tanto facciamoci valere anche noi. Non è un endorsement a De Castro, è un endorsement a un italiano come commissario all'agricoltura europea. Grazie al presidente De Castro. Di nuovo in diretta dal Vinitaly con Focus Economia, padiglione 12, stand E5. Allora, di tutte le critiche che leggo al 349-238-6666, quella che accolgo, e avete ragione, è sull'inglesismo endorsement. Avete ragione, vuol dire appoggio, supporto, muoversi a favore di qualcuno. A chi invece mi dice che vergogna, avete fatto propaganda, e qualcun altro mi ha detto che vergogna sto spot elettorale. Allora ribadisco e chiarisco, non me ne frega nulla di chi farà il commissario all'agricoltura europeo, non me ne frega nulla di che partito, da quale partito arriverà. Quello che mi frega, e ribadisco, sì, è uno spot per l'Italia, faccio propaganda per l'Italia, certo che faccio propaganda per l'Italia. Vorrei, visto che c'è questa possibilità forte, se il paese si presenta compatto politicamente, si ottiene anche l'appoggio di altri paesi del sud Europa, c'è la possibilità che il commissario europeo all'agricoltura della prossima Commissione europea sia un italiano. Ebbene, vediamo di muoverci compatti su questo, al di là delle logiche interne di partito. Poi chi vuol capire capisce, chi non vuol capire non capisce, ma a me interessa che il commissario europeo sia un italiano, perché i danni fatti da commissari europei che poco a cuore avevano l'agricoltura del sud Europa e pensavano più all'agricoltura del nord Europa, li abbiamo già visti negli anni passati. Quindi, visto che tutti i fondi all'agricoltura arrivano dall'Europa, sarebbe importantissimo che il commissario europeo fosse italiano. Non ho nessun problema a fare questo spot, come dicono alcuni, per l'Italia. Gianni Zonin e poi Ettore Nicoletto, concludiamo invece sull'andamento del settore. Altri ospiti in questi giorni hanno raccontato, ma con volumi molto più piccoli rispetto ai vostri, a me interessa perché voi siete proprio due classici produttori anche da mass market, cioè dovete fare i volumi e i numeri, li ricordavo prima, quando tu vendi 42 milioni di bottiglie o quasi 17 milioni e mezzo di bottiglie, i numeri li devi fare. Allora, è cambiato qualcosa rispetto a un anno fa, quando i consumi interni, temo di no, ma insomma vorrei avere una verifica con voi, i consumi interni erano in difficoltà e tutto lo sforzo del mondo vitivinicolo, anche sui grandi numeri, non solo sulle produzioni di alta qualità, si era diretto verso l'export. Zonin. Ma il mercato italiano, diciamo che ha ultimato, secondo noi, la sua lieve discesa, però purtroppo progressiva di anno in anno. E da qualche mese notiamo che si è stabilizzato il mercato e è probabile, con questa voglia che dimostrano le famiglie e le imprese di uscire da questa crisi dell'economia è probabile che riprendano leggermente i consumi. Non ci aspettiamo grandi incrementi sul mercato italiano. Quello che è importante, comunque, visto che ormai il 50% del vino prodotto in Italia va all'estero, quello che è importante è che manteniamo le posizioni all'estero con buoni incrementi. Non ci saranno più forse gli incrementi a due cifre, ma ci basta un 5, 8, 7, 10% e credo che sarebbe un grosso successo per l'Italia. Ecco, Zonin, i dati che vi arrivano dall'estero confermano anche per voi che tengono i mercati tradizionali, vanno bene i mercati tradizionali, penso all'Europa, non solo l'area euro, anche la Gran Bretagna e agli Stati Uniti, e che invece sul fronte Cina, India, Brasile c'è ancora qualche problema per essere buoni? Ma il Brasile ha qualche hanno accordi particolari, poi hanno due nazioni di grandi produttori che sono il Cile e l'Argentina vicino, e quindi è evidente che i nostri vini sono stati un po' penalizzati da questi due grandi produttori. E poi dirò che l'economia in Brasile non ha segnato il passo, e anche questo non è stato un fattore positivo. Quello che è importante invece sono i paesi produttori tradizionali, mi riferisco agli Stati Uniti, Germania, Inghilterra, mentre sulla Cina forse abbiamo fatto troppi sogni, ma la Cina è un mercato piccolo, è un mercato modesto, i cinesi devono ancora imparare a conoscere il vino. Spero che con l'Expo avremo almeno 1 milione di cinesi che vengono a conoscere l'Italia, a mangiare italiano e a bere vino italiano. Dopodiché ci prepareremo per conquistare la Cina. Beh, come diceva ieri il presidente della Fiera di Verona e del Vino Italia, Ettore Ariello, l'accordo firmato con il commissario Giuseppe Sala all'Expo, per cui l'anno prossimo il Vino Italia sarà a Verona ad aprile, però poi si trasferirà una parte, diciamo, del mondo italiano del vino dentro l'Expo, dentro Palazzo Italia, per 6 mesi, e questo mi sembra un elemento importantissimo. Ettore Nicoletto, anche per lei, consumi interni e quali mercati vanno meglio all'estero? Allora, concordo con la fotografia che ha appena scattato il presidente Zonin, i consumi sono in calo, anche se c'è un rallentamento oggettivamente, e ci auguriamo che si fermi questa caduta. Bisogna riportare il vino di qualità sulle tavole degli italiani, anche con messaggi nuovi. Dobbiamo ricordarci che ci sono dei nuovi consumatori e bisogna tornare a parlare di vino con valenze positive, le valenze salutistiche, sociali, anche ambientali, e parlare di vino come un prodotto che catalizza la relazionalità, la convivialità. E ricordiamoci che i consumatori di oggi sono molto diversi da quelli di un decennio, 20, 30 anni fa, e dobbiamo parlare un linguaggio nuovo, con un tono nuovo, e la comunicazione del vino, dobbiamo accettarlo, si sta spostando sul digitale, sugli smartphones, e quindi anche il messaggio del vino va ricalibrato con nuovi media. Per quanto riguarda l'estero, chiaramente il sistema Italia funziona, per 3 anni consecutivi ha recuperato valore. Siamo ovviamente molto incoraggiati da questo trend, dall'altro lato però dobbiamo guardare con estrema attenzione, secondo me, alle dinamiche valutarie, perché l'euro è molto forte, e quindi questo può penalizzarci in mercati che sono il riferimento del sistema Italia, quelli ad alta generazione di valore, penso al Nord America. E poi guardare con attenzione anche le dinamiche di cambio sui mercati che per noi sono importanti, come gli Stati Uniti, perché la nostra concorrenza è mondiale, quindi dobbiamo guardare a come si muove il peso argentino, il peso cileno, il dollaro australiano, quindi è una partita difficile quella delle valute, e per cui dobbiamo monitorarla con estrema attenzione. L'euro forte ci penalizza. Beh, io l'ho detto più volte, a mio avviso un rapporto di cambio corretto potrebbe essere 1-1, un dollaro, un euro, 1,1, a 1,40 o 1,38 siamo, diciamo, al 38% in più di valore del dollaro. Dell'euro, scusatemi, sul dollaro, non giustificato dall'andamento dell'economia, perché come stiamo per raccontare l'economia americana si è pienamente ripresa, sia in termini di disoccupazione che in termini di nuove case che in termini di potere d'acquisto, quella europea no, non si capisce perché l'euro debba valere, o meglio lo si capisce benissimo con la politica che fa l'America, ma non ha un senso economico che l'euro debba valere un 30% almeno in più rispetto al dollaro. Vorrei vedere, non è il problema di eliminare l'euro come scrivono alcuni, ma è il problema di avere un euro che corrisponde di più alla nostra economia, e un'America che la smetta di svalutare il dollaro per riprendersi. Grazie comunque, in bocca al lupo a voi come a tutti i produttori di Vinitaly. Grazie a Gianni Zonin e a Ettore Nicoletto. Sette 47 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso arriviamo alla borsa. Ha fatto meno 1,46% oggi Milano, Parigi meno 0,25%, Francoforte meno 0,21%, quindi Milano nettamente la peggiore, con flessioni forti sui bancari, ma non solo. Vorrei però collegarmi subito con Alessandro Merli, che è inviato da Sole 24 Ore a Washington, dove si è tenuta la presentazione delle previsioni del Fondo Monetario Internazionale. Alessandro, buonasera. Buonasera a voi. Allora, mi sembra di capire che al di là delle previsioni, quindi l'economia europea che crescerà dell'area euro dell'1,2% quest'anno, dell'1,5% l'anno prossimo, l'Italia farà un modesto più 0,6% quest'anno e più 1,1% l'anno prossimo, la disoccupazione resterà salirà al 12,4% quest'anno, scenderà solo l'anno prossimo all'11,9%. Mi sembra di capire che il Fondo Monetario ha voluto rispondere di nuovo alla BCE, alla Banca Centrale Europea, sul tema della deflazione. Dice che i rischi ci sono e la Banca Centrale Europea ha gli strumenti. Alessandro. Sì, ormai va avanti da un po' questa polemica. Cioè, il Fondo Monetario sollecita la BCE a far qualcosa sul fronte della politica monetaria già direi da diversi mesi. Finché Draghi all'ultima conferenza stampa ha risposto un po' piccato, che insomma è contento di questi suggerimenti, ma in fondo dovrebbero rivolgerli anche ad altri. La BCE torna sulla questione. Olivier Blanchard, il capo economista, che tra l'altro è un grande amico nonché ex compagno di università di Draghi, dice: la BCE lo sa che l'inflazione è molto più bassa del suo obiettivo e sa quali sono le misure da prendere. Per noi prima lo farà e meglio è, quindi diciamo che con toni bassi, però in modo abbastanza inequivocabile, il Fondo Monetario torna a sollecitare la BCE a fare qualcosa. L'inflazione troppo bassa in Europa e il rischio di deflazione sono, secondo me, a giudicare dai commenti di oggi, una delle questioni che per il Fondo Monetario sono più critiche per l'economia globale. Ecco, devo dire che oggi se ne accorge, tra virgolette, anche la Bundesbank, perché il consigliere esecutivo dice: beh, se l'inflazione dovesse essere troppo bassa, gli strumenti ci sono. Devo dare una risposta agli ascoltatori. Attenzione, la deflazione, cioè i prezzi in calo, non sono solo un problema, perché uno dice che bello, i prezzi sono in calo, certo, però non sono solo un problema da un punto di vista degli acquisti, perché sappiamo storicamente che quando c'è la deflazione i consumatori ritardano tutti gli acquisti che possono ritardare, perché si aspettano prezzi in calo e quindi vai a ritardare l'acquisto. La deflazione per i paesi con un alto debito, cioè moltissimi paesi europei a partire dall'Italia, ha un piccolissimo problema, che l'inflazione erode un po' il tuo debito in termini reali. Facevamo ieri l'esempio: tu avessi un'inflazione al 10%, vuol dire che il tuo debito un anno dopo vale il 10% in meno. La deflazione fa l'operazione opposta, cioè aumenta in termini reali il valore del tuo debito, tant'è che oggi il ministro Padoan, ascoltiamolo magari in inglese, ha detto: l'inflazione rende più difficile l'aggiustamento del debito, e ha anche aperto, tra virgolette, ha detto: beh, il quantitative easing, cioè lo stampaggio di moneta da parte, l'iniezione di liquidità da parte della BCE attraverso l'acquisto di titoli di Stato o altri titoli, sarebbe lo strumento adeguato per l'Europa. Faccio notare che è l'approccio che sta usando la Federal Reserve, la banca centrale americana, da ormai 5 anni. There is a debate about when to do it, but also how to do it, because yes, I think quantitative easing would be appropriate for the euro area, but of course it's not like the US, at least for one reason, that in the euro area still have a high degree of financial and credit market fragmentation, which means that monetary policy decided at the center of the euro area transmits impulses in very different ways across monetary union. Beh, quanto mi piace anche l'inglese di Padoan, oltre a quello di Draghi, ogni tanto avere anche dei ministri che parlano bene l'inglese, a me fa bene all'Italia, non fa bene all'inglese. Detto ciò, Padoan diceva: attenzione, il nostro quantitative easing potrebbe essere diverso da quello americano, ma mi sembra insomma che l'altro grosso tema, Alessandro, oltre alla deflazione, sia l'ipotesi che la Banca Centrale Europea inizi a immettere liquidità attraverso l'acquisto di titoli. Sì, è un'opzione che la BCE non vede con grandissimo favore, un'opzione che hanno messo sul tavolo, lo faranno quando saranno costretti eventualmente da un ulteriore peggioramento delle loro previsioni di inflazione, quindi sono riluttanti. Abbiamo sentito dopo Draghi la scorsa settimana, in questi giorni, vari altri esponenti della BCE dire che questa non è una cosa imminente. Credo che molto dipenderà dai dati dell'inflazione dei prossimi mesi. Sappiamo quasi per certo che ad aprile ci sarà un rimbalzo rispetto a marzo per una serie di ragioni, una tantum, quindi da 0,5 potrebbe risalire a 0,8, qualcuno dice anche 0,9, però è possibile che il mese successivo ridiscenda di nuovo. Io credo che se nei prossimi 2-3 mesi in effetti le cose andranno così, la BCE si vedrà un po' costretta ad agire, anche per non mettere in gioco la propria credibilità, perché una volta che prometti che farai, se poi quando le condizioni ci sono, certo, non fai niente, evidentemente perdi la faccia. E molti pensano alla prospettiva di giugno, quando la BCE di nuovo dovrà rivedere le previsioni sull'inflazione. Come lo farà è il quesito che si è posto anche Padoan, perché chiaramente negli Stati Uniti può intervenire sul mercato dei treasuries, qui ne abbiamo 18 diversi di mercati dei titoli di Stato, ci sono pochissimi asset, pochissime attività emesse dal settore privato, che è quello che invece ha fatto la Fed acquistando MBS e altri, certo, e altri tipi di titoli, e quindi non è ovvio anche dal punto di vista tecnico, però è una cosa che si può fare. Senti, e che probabilmente si renderà indispensabile. Alessandro, un'ultima cosa, abbiamo un minuto scarso, ma hai avuto anche tu l'impressione che pure a Washington la posizione tedesca si stia, seppur lentamente, ammorbidendo sul tema rischio deflazione e quindi politiche da mettere in campo? Ma diciamo che la Bundesbank il discorso inflazione o deflazione è un discorso che capisce bene, cioè a differenza di altri strumenti come potevano essere l'OMT o altri i salvastati, diciamo, sì. Ecco, esatto, che sono considerati anomali dalla Bundesbank come politiche, però politiche per la banca centrale. Evidentemente l'inflazione è il mandato della banca centrale. Nel momento in cui l'inflazione scende così tanto sotto l'obiettivo, persino in Germania, è chiaro che la Bundesbank è sensibile a questa argomentazione. Poi si può discutere, questa apertura di Weidmann di una decina di giorni fa è stata piena di molte condizioni, di molti distinguo, quindi non è che adesso improvvisamente la Bundesbank sia diventata una paladina di questo quantitativo, però capisce le necessità di questa situazione, e credo che lo abbia detto anche abbastanza apertamente da un po' di tempo a questa parte. Allora, grazie Alessandro Melli, in collegamento con noi da Washington, dove appunto oggi si è tenuta la presentazione dei dati, delle previsioni di primavera del Fondo Monetario Internazionale. Dopo il GR commentiamo la borsa, -1,46%, deboli molti bancari, e poi le attese sul Consiglio dei Ministri. 349-238-6666 per gli sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Together. Alle 18:08 riprende Focus Economia in diretta anche oggi, e solo per oggi, visto che domani torniamo in diretta da Milano dal Vinitaly, padiglione 12, stand E5. Allora, dopo aver affrontato i temi del vino anche su base europea con il presidente della Commissione De Castro e con due grandi produttori, e poi esserci collegati con Washington per l'outlook, ma per i temi soprattutto del Fondo Monetario Internazionale, andiamo adesso alla borsa e poi le anticipazioni sul Consiglio dei Ministri di carattere totalmente economico, visto che deve approvare il documento economico finanziario che inizia tra pochissimi minuti. meno 1,46% Milano, meno 0,25% Parigi, meno 0,45% Francoforte. E questo la dice lunga su Piazza Affari, che è stata oggi la peggiore delle borse europee, complici soprattutto i titoli bancari, visto che Monte dei Paschi ha perso il 4%, la Popolare Emilia Romagna il 3,70%, Mediobanca ha perso il 3,40%, UbiBanca il 2,70%, il Banco Popolare meno 2,40%, male anche Azimut, quindi Risparmio Gestito, meno 4,75%, male anche Mediaset, che ha perso il 4,70%. Di positivo c'è solo, e in maniera però significativa, Ferragamo più 5%. Eleonora Micheli, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora Eleonora, la giornata era iniziata debole e si è conclusa debole. Perché oggi calano soprattutto i bancari? Ma guarda, il discorso è molto tecnico, sentendo anche tutti i trader si tratta di un movimento fisiologico, si vendono i titoli che hanno corso di più, quindi quelli bancari, si vendono i mercati che hanno corso di più, ovvero Milano e Madrid, Parigi e Francoforte, come hai già detto tu, hanno contenuto le perdite perché del resto da inizio anno avevano corso meno. A Piazza Affari il FTSE MIB da inizio anno guadagna oltre il 15%, solo da inizio marzo il guadagno è attorno all'11%, insomma un po' di prese di beneficio ci stavano. E quindi giù i bancari, come abbiamo ricordato. Per quello che riguarda però altri titoli, Mediaset oggi perde il 4,50%, è ancora ampiamente in rialzo rispetto al livello di inizio anno. Sì, infatti gli investitori vanno a colpire con le vendite i titoli che hanno corso di più, quindi bancari, quindi Mediaset, che nonostante la flessione di oggi comunque si mantiene al di sopra dei prezzi di inizio anno del 20% circa. Un altro titolo ad esempio è Telecom, che guadagna da inizio anno un 21%. Discorso contrario per Ferragamo, che hai detto tu è andata molto bene, però Ferragamo ricordiamo che da inizio dicembre aveva iniziato a perdere colpi, a perdere terreno, e tanto che ad oggi, nonostante il rimbalzo del 5%, comunque si allontana il 25% dai massimi toccati a fine novembre, inizio dicembre. E quindi da come tu la stai descrivendo sembrerebbe una classica rotazione di titoli. Mediaset infatti ha perso il 4,50%, ma Telecom il 3,50%. C'è un caso però che si chiama Enel. Enel ha perso lo 0,60%, quindi non ha perso tantissimo, ma la cosa è un po' singolare perché ha annunciato oggi, e ha annunciato non oggi, un'alleanza con il gigante cinese State Grid per combattere proprio l'inquinamento nelle metropoli cinesi. Sì, infatti la società peraltro era partita bene in prima battuta questa mattina, i titoli guadagnavano terreno, poi hanno un po' subito l'andamento della borsa. Tra l'altro la joint venture, anche secondo gli analisti, è molto importante perché potrebbe aprire le porte anche verso altri mercati limitrofi a quello cinese, ovvero al Vietnam, all'Indonesia, alla Corea. Andando invece sui titoli migliori e peggiori in assoluto, la banca di Genova, Cari Genova, è più 7,90% sul risparmio, Mondo TV più 7,52%, di Ferragamo abbiamo detto, e invece Bene l'Espresso più 3,73%. Fronte opposto invece Banca Carige sulle ordinarie meno 6,70% e Telecom Italia Media meno 6%. Allora, da un lato Telecom Italia Media, dall'altro però l'Espresso. Sì, Telecom Italia e l'Espresso, domani ci saranno importanti consigli di amministrazione che dovrebbero varare un'operazione importante, cioè le due società metteranno assieme i multiplex. Si tratta ovviamente della banda da cui passa, per parlare in parole povere, da cui vengono trasmesse appunto i segnali televisivi. Probabilmente l'Espresso cederà due multiplex a Telecom Italia Media, secondo indiscrezioni, ma per adesso non vi è alcuna certezza. Domani il consiglio di amministrazione, il mercato ci scommette, ha fatto salire del 3,7% l'Espresso. Le Telecom Italia Media invece sono andate giù del 6%, ma avevano fatto molto bene la vigilia quando si sono diffusi i primi rumor sull'operazione. Ecco, per dovere di cronaca, anche il Sole 24 Ore, dopo giornate intere di fortissimo rialzo, oggi perde il 5,77%. Rizzoli, Corriere della Sera, sul risparmio perdono 4,87% e invece sull'ordinario 4,70%. Grazie, onorevole Michele, Radio Corriere del Sole 24 Ore. E 16 minuti, ultima parte di Focus Economia. Allora, andiamo al Consiglio dei Ministri. Le misure più attese, dicevamo, taglio del cuneo fiscale da 6,6 miliardi relativamente al periodo maggio-dicembre, dovrebbero essere 10 miliardi su base annua, però appunto si va da miliardi da maggio a dicembre, quindi sarebbero 6,6 miliardi sotto forma di sgravi IRPEF, i famosi 80 euro in più in busta paga a partire da maggio, e IRAP, anche qui la percentuale non è chiara, si è ipotizzato un taglio del 10%. Le coperture dovrebbero arrivare in larga parte dalla spending review, dalla revisione della spesa pubblica, 5 miliardi, e dal solo settore sanità si attendono risparmi per quasi 1 miliardo di euro. Confermato anche il giro di vite sugli stipendi dei manager e dei dirigenti pubblici, si attendono 400 milioni di euro di risparmio da questo. Il tetto soprattutto è i 239 mila euro di guadagno massimo, quelli che spettano al Presidente della Repubblica. Un altro 1,5 miliardi dovrebbe arrivare dall'IVA, dal gettito aggiuntivo dell'IVA, visto che il governo ha intenzione di rimborsare altri 13 miliardi di debiti che la pubblica amministrazione vanta nei confronti delle imprese. Allora, su questo il ministro Beatrice Lorenzin sulla sanità ha detto: attenzione, il fondo sulla sanità sarà legato all'andamento del PIL, ma non vogliamo tagli lineari. E poi ha aggiunto: possiamo recuperare 900 milioni di euro per livelli di assistenza, per rifare i livelli essenziali di assistenza che sono fermi da 12 anni in Italia, aggiungendo: nella sanità a maggior ragione è inaccettabile qualunque spreco, anche fosse di un euro solo. Ascoltiamola al microfono del nostro Francesco De Remigis. Finché io non c'ho i numeri del Ministro dell'Economia, faccio solo un'azione preventiva. Il tema è uno, che noi abbiamo un budget, che è il budget dato e fotografato dal tendenziale del PIL, ovviamente. Questa è una cosa che sanno benissimo le regioni e che noi abbiamo sempre avuto come tema. Un fatto è rispettare il tendenziale del PIL e cercare di capire come ci muoviamo, un fatto è avere tagli lineari. I tagli lineari che ti cadono in testa sono difficilmente gestibili e spesso ti impediscono poi di avere possibilità di margine di manovra per recuperare inefficienza. Per come è stata gestita negli anni il sistema, nonostante i cambiamenti che sono stati messi, noi abbiamo fatto i costi standard a dicembre, quindi ormai sono legge, abbiamo però la necessità di recuperare miliardi di euro che si possono ancora recuperare da margini di inefficienza, sprechi, cattiva gestione, anche a volte semplicemente una sciatteria nell'amministrazione, e per reinvestire questi soldi nella salute delle persone. Noi abbiamo già approvato una serie di articoli, il primo prevede 900 milioni di euro in 3 anni recuperati da un'ottimizzazione delle degenze in ospedale da reinvestire nei LEA. Così il ministro Lorenzin agli stati generali della sanità che si sono tenuti questa mattina a Roma, a cui ha partecipato anche il presidente del Consiglio Matteo Renzi, che stando tra l'altro alle ultime conferme dovrebbe essere domani in visita al Vinitaly. È la prima volta che un Presidente del Consiglio torna al Vinitaly da 26 anni a questa parte. Comunque Renzi sulla spending review ha detto una cosa che ha suscitato anche grande applauso negli stati generali della sanità: la spending review è un atto di equità, chi ha avuto troppo deve restituire. È evidente che la revisione della spesa va fatta, perché non c'è una persona tra di noi che non sappia che questa è una priorità. E in questa revisione della spesa, nel pomeriggio illustreremo tutte le varie misure, il criterio chiave che noi abbiamo è che chi in questi anni ha preso troppo, ha evitato di fare i sacrifici, è arrivato il momento che si preoccupi di restituire quello che ha avuto e di dare a chi non ha avuto, a partire dalle famiglie che stanno sotto i 1.500 euro al mese e che non ce la fanno più. Hey. tutto bene, tutto giusto, ci mancherebbe, la nostra testa è una giungla, perché ancora invece non abbiamo capito quale sarà la montata del taglio. Chiedo Lumi, anche se pure lui non ha la sfera di cristallo, visto che il Consiglio dei Ministri è iniziato, a Dino Pesole del Sole 24 Ore. Buonasera Dino. Buonasera Sebastiano. Allora, alziamo un po' il volume di Dino Pesole, che lo sento un po' basso. Dino, io citavo, insomma, da maggio i 6,6 miliardi per l'IRPEF, 80 euro in più. Mi sembra che ci sia più incertezza sull'IRAP. E poi, non voglio fare il gufo, perché sennò mi autodò il gufo, ma insomma tutta questa certezza sulle coperture che arriveranno dalla spending review mi sembra un grandissimo atto di ottimismo, della volontà, non vorrei aggiungere il pessimismo della ragione. Beh, penso che tu abbia in gran parte ragione, si tratta di un documento programmatico e dunque come tale va interpretato. Il documento programmatico, per le bozze che noi abbiamo a disposizione, in effetti confermano le cifre che tu citavi. Si parla, anzi un po' di meno, di 6 miliardi nella bozza che abbiamo visionato, quindi vediamo se poi sarà quella definitiva, 6 miliardi di tagli per quest'anno alla spesa corrente. Per l'anno prossimo diventano 10, come tu giustamente osservavi. Allora, qual è il problema? Va benissimo tagliare la spesa pubblica, lo diciamo in ogni salsa da anni. Il problema è capire, primo, come si articolano questi tagli, perché nel DEF evidentemente ci può essere un'indicazione di percorso, poi ci vorrà un provvedimento, ci vorrà un decreto. E poi lì, quando ci sarà il decreto, vorrei capire quale sarà l'orientamento delle forze politiche, perché questione non secondaria, poi i tagli vanno in Parlamento. E purtroppo l'esperienza del passato recente ci induce a una certa prudenza al riguardo, perché quello che poi il governo fa, Monti ad esempio ha provato più volte a forzare in questa direzione, poi il Parlamento disfa. Quindi diciamo che l'intendimento è apprezzabile, poi bisogna sospendere necessariamente il giudizio. Quanto all'IRAP, nelle bozze che abbiamo visionato è confermata l'intenzione di tagliare appunto da questo lato il cuneo fiscale per il 10%, c'è scritto, e la copertura verrà individuata attraverso un aumento della tassazione delle rendite finanziarie, dal 20 al 26% si presume. Quindi in questo caso avremo un aumento di tassazione. E quindi insomma è uno scenario in movimento, ora tra un'ora sarà tutto ben chiaro. No, ecco, esatto, io non voglio anticipare nulla visto che è difficile, però attenzione, l'aumento della tassazione sulle rendite finanziarie è sicuramente sgradevole perché è un aumento di tassazione, però se fosse la controparte per ottenere una riduzione dell'IRAP del 10%, a mio avviso va nella direzione corretta, nel senso che senza voler penalizzare, intanto l'aumento della tassazione finanziaria, delle rendite finanziarie non va a applicarsi ai BOT e ai titoli di Stato, però senza voler penalizzare nessuno, ma è chiaro che se devi scegliere tra tassare la rendita di carattere finanziario e tassare l'attività produttiva, cioè chi genera occupazione e genera prodotto, beh, mi dispiace dirlo, ma personalmente penso che sia fondamentale tassare la rendita finanziaria più che tassare le imprese che già hanno problemi di occupazione, già hanno problemi di fatturato, già hanno problemi di consumi interni. Riduce almeno l'IRAP da questo punto di vista. È chiaro che il mondo migliore sarebbe non tassare le rendite finanziarie, no, e ridurre la tassazione sull'IRAP, ma questo non è chiaramente possibile. Lo scoglio secondo te più grande, quindi mi sembra di capire, Dino Pesole, riguarda quando poi questi provvedimenti andranno in Parlamento, perché chiedere al tacchino di anticipare il Natale, come dicono gli americani, è sempre dura, e qui alcuni ministeri, alcuni soprattutto lobby, potrebbero vedere tagliate le risorse. È esattamente questo il punto. Si tratta di una manovra che a maggio taglia la spesa per 6 miliardi, se non di più. Questo vuol dire che in ragione d'anno, e infatti dall'anno prossimo diventano 10, 32 nel triennio. È un'operazione che non è mai riuscita. Allora, dopodiché, se in questo caso riuscirà, saremo i primi a andare tutti in processione a Palazzo Chigi a complimentarci col Presidente del Consiglio. Io dico, forse è consigliabile una certa prudenza prima di capire in che direzione andranno questi tagli. piuttosto che celebrarne subito i magici effetti. Detto questo, però, mi sembra che la direzione di marcia sia corretta ed è quella che l'Europa ci va dicendo da anni, e cioè i tagli alle tasse si finanziano con tagli alla spesa. Punto. Per quanto riguarda la revisione del trattamento fiscale delle rendite finanziarie, sono sostanzialmente d'accordo con te, perché anche qui l'Europa ci segnala da tempo la necessità di uniformare il trattamento fiscale anche sul benchmarking europeo. E dunque si agisce in quel senso. Si può obiettare, si può dire che in questo modo si finanzia una riduzione di tasse con un aumento di tasse, ma evidentemente la coperta è quella che è, e dunque per ora questa è la strada. Sì, ho capito, questo, ecco, vorrei però vedere il Parlamento cosa dirà. Sì, è vero che si finanzia una riduzione di tasse con un aumento di tasse da un'altra parte, però ripeto col massimo rispetto, ma una è una tassa che colpisce l'attività produttiva, l'IRAP, l'altra no, e quindi se devo scegliere, obiettivamente in questo momento è meglio ridurre l'IRAP. Poi vedremo appunto i vari ministeri. La Lorenzin prima ha detto no, aspettiamo il ministro Padoan, però no ai tagli, appunto ai tagli lineari. Le previsioni nel documento economico finanziario sono di una crescita del PIL dello 0,8% quest'anno, quindi un po' più alta rispetto al Fondo Monetario, è un deficit che a politiche invariate resta al 2,6%. Staremo a vedere. Grazie intanto a Dino Pesole del Sole 24 Ore. Grazie, buona serata. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia, l'ultima in diretta da Vinitaly. Un ringraziamento a Paolo Corleoni per l'assistenza in regia, grazie anche a Davide Cioccia per l'assistenza tecnica, come sempre a Mauro Del Corno e Barbara Bianchi per l'assistenza in redazione. Noi torniamo in diretta dalle 17 in poi domani dagli studi di Radio 24 a Milano, ma altri programmi della radio resteranno in diretta dal Vinitaly. Intanto da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Radio 24. La passione si sente.